Mi sono piccolato un macchetto per domani mattina. Devo attaccare due faritti con i pannelli solari, e in più tagliare l'ingresso con la siepe, con il tagliasiepi elettrico. E ce l'ho anch'io, ma no, ce l'ho io, non lo portare, va bene. E vabbè, e si fa anche quello, piano piano. Infatti, a Roma che uno sta in casa a rompiti i cazzi. Amo che passo il tempo, tutto il dia oggi in casa, guarda. Sono uscito pure la sera, farò una commissione bombaccia e sono subito rientrato. Andrà bene. Ieri sono uscito perché ho preso tutta la corrente. Levami in mare, sì, che dopo vi faccio la cremuzza, perché c'ho le uova, c'ho la farina, c'ho tutto. Gava gava. Quindi quando lo sta bollendo ci metto il coso, giro giro giro, quando diventa già, lo spengo, lo tocco dal gas. Poi continuo a girare e poi lo verso sull'altro stampo. No, lo abbassi il gas. Lo abbassi, è tanto di una bisa che diventa bisanti, no, girendi. Quando diventa bisanti vuol dire si è addensata ed è pronta. Sì, ma tu mi avevi detto, poi quando è finito, metto su un altro contenitore perché sennò continua a budire. Quello sì, quando è pronta, poi la prendi e la versi in un altro contenitore freddo per farla raffreddare, no? Sennò continua a cucinare. E vedi, io mi dimentico sempre che operai che ti vieni oggi, boh, non so buona scena, insomma. Cos'è che ti sei dimenticato di prendere? I bignè, beauty. Cazzo, è onde la buona la crema. Devi comprare quelli lì, al in tutti i supermercati penso che li vendano. Ho capito, tu mi ci dovrai mettere la crema, sennò le cucchiaio è boccato. Ah, io mi ero arrivata con i bignè. Prova a dare la crema marsala, quella marsala all'uovo dentro, a vedere. No, adesso infatti la divido e una la faccio con la marsala. No, la marsala la metto dopo, Natalia. Ehi, quando la dividi in due contenitori, uno lo fai a crema marsala e uno a crema normale. Oppure ne puoi fare un altro po' al cioccolato, sono tre tipi di crema. Tu quando la assaggi con la marsala mi dici vero è. Tu gli metti la marsala e la giri, no? Cazzo, esci una bomba. E buon arrivo. La marsala ce ne va poco però. Ehi, insomma, un pochettino ce ne va, non ce ne va molto, no? Metti mezzo bicchiere, là, neanche. E la giri. E poi mi diverue a vedere usare i tidalli. Ma mettendo la marsala poi, mezzo bicchiere come dici tu, non diventa trovato liquido da voi? No, non devi farla diventare liquida, no. Allora metto di meno, un pochettino, dai. Un litro di bicchiere, dai. E a occhiometro fai, secondo quanta crema c'è? Beh, ne posso mezzo litro, fate il conto, la divido. No, a cacao Natali non ne faccio più, la giornata la cavo ce l'ho mai piaciuta assai. E non chiamatelo, non chiamatelo. Mimì, ti ho chiamato, attraversi, non mi ripuso. Qua Berchitta, Berchitta. Berchitta, che stavo piacendo a me. Ma mi senti a me, Savi? Saverio, mi senti? Sì, Antonio, forte e chiaro, forte e chiaro. Andrà bene. E poco fa ti abbiamo chiamato, ma... infatti non mi ha risposto, forse era in zona d'ombra. Avanti, Natali. Infatti. Sì, sono intenzionato, sono Natali. Andiamo a pigliare i bignì. Almeno te li fai, ma escini una chiusitezza, esco. Con quella crema marsala che ti ho detto, cioè, tanto c'è la marsala al uovo lì. E buon un po' ginchibile a ieri. E da voi mi di per uè. Per me la procedura la so già. Visto che mi hai detto esci da guare, quindi la passo con gli appacchiccini. Ui, della cremuzza. Dai, mia cicomino, mi casco, a te te lo do io il cornetto alla crema. Va bene, mi sentite? Sempre, Sanvi. Dai, ancora adesso le zone, là. Quasi vicinanze Trucco Reale. Già sei vicino a Trucco Reale, dai. Ti arriviamo sempre bene, sì. Ma voi, tu arrivi perfettamente. Io non so come sto arrivando a te. 9:10, la radio 5. Natalia, a te? A me lo stesso mi arriva di lusso. Non so se mi sente a me, perché io sono basso di potenza e quindi non lo so come gli sto arrivando. Natali, arrivi bene anche tu, mi ascolti a me? A voglia, se ti ascolto, ti ascolto, ti ascolto. Arrivi sulle parti, è entrato Cingomino, ho detto Manuel. Mi è Manuele Cingomino, mi. E beh, Manuel. Da dove io la crema a te? Ti do il coronetto alla crema, me le buttindo. Manuel, ma quando è che passi, ma chissà cosa? Ma presto, perché io alle 10 c'ho l'appuntamento a fare dei lavoretti. Se maneggiavando, cosa dico? Di no, capita. Se no che bocca di più. Almeno posso prendere più vigni e più creme. Ma tu vuoi venire anche domani sera a casa? Mica ci sto tutto il giorno, solo in mattinata io e boh. Quando vuoi chiamami comunque per il sicuro. Capito? Andrà bene. E allora Saverio, mi senti sempre? A voglia, a voglia. Andava meglio così, c'è un processo di segnare un pochettino, avanti Natali. Sta arrivando anche qui Saverio, già arriva, là. Sì. Vedi Manuel, se invece facevi un favore a padrino, uscivi tu, mi compravi tu i bignè, così non esco io. E te, Natali, non esce da Siretto, a chi è Tim Lufretto e Mare Bucchitone. Questo Manuele, una scena, Se sei di Riccardo Du. Di Riccardo Manuele, Gurari, Dugata Du. Ti vuoi chiamare di Bucco, Gambo? Perché Italia, tu di Riccardo, poverino, poverino, non esce lui la sera. Per carità, comunque c'hai qualche problema con la batteria mia, senz'altro Manuel. Comunque io ce l'ho un po' scarica, perché è da molto che non la uso, comunque sono nuove, nuove le mie. La metti e fai girare e poi si ricarica automaticamente. Manuel, io ce l'ho già un bel po' di mesi che è così mia. Lo dico subito. Sarà un 3-4 mesi ferma anche la batteria mia, Non lo so, se non ce la fa, mettiamo il cavetto, non c'è problema. Ma poi si ricarica automaticamente. Tu da casa mia, poi da casa tua è già carica. Ti fai un bel giro, così la carica ancora di più. Vai a cagliare, poi torna e così è carica. Avanti, Natali, io sei spostato. Saverio, mi ascolti ancora? Io Saverio non lo sento. Saverio? Io sei. Adesso ti dicevo anch'io, 9-5, 9-10, perfetto. Andiamo avanti, dai. Santiago 9 sei sceso, da 9-10 quasi. Io sento, ti sento. Comunque, a me sempre bene mi senti. A voglia. Ho capito. Andrà bene. Vai piano. Andrà bene. Ok. Allora, Natalici, sì. Manuel. E un attimo che mi avevano suonato alla porta, è venuta una persona. Ok, caffata lì. E io troppo stesso vado al mio comprosebigliè, mi sto rompendo, ga. Ogni volta, ga. A me faccio 2-3 pacchi, io faccio la riserva. Manuele, attenzione, Manuele. Manuele, allontanati dalla linea gialla. Sul fumo. Barbe da che esce da vigliarsi in bignica, non posso fare la crema senza bignica, appunto che mangiano con cucciare e mangio un bega. No, no, no, io devo riferire i bignica, dai. Bene, bene, dai, vado alla Conad, dovrebbe averne anche lì. Ok, Manuel, dai, ci sentiamo. Ok, mi chiami prima, capito. Ciao, ciao, ciao Natalizia, ascolto. Ciao a Saverio, io sto chiudendo, che devo uscire a comprarmi i bignica. Ciao, ciao. Dai, mi trattengo un altro pochettino e più tanto già è presto. Sono le 7:10. Alle 7:10 vado. Dove sei adesso, Rosavì? È sempre bene che arrivo là. C'è Radio 5, c'è Radio 5, Tony, non c'è un problema. Cappa, bene, meda. Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, binario 10. Pimplo. Salve. Gianni, doppio room, dimmi tutto. Dove sei? A Sentino sei andato. Guarda, camionare qua la via. Bene, Santiago 8, da 8 a 9, dai. Io faccio scale con il blu, come ci siete più. Ti senti, ascolto benissimo. KK. Adesso non ho capito dove stai andando, dai. Ma solo sì. No, con mio fratello e mio cognato. Ma non so se si può però capire dove sto andando io. Il mare è grande, lungo e largo. quella zona la conosco, dai. Io o meno, non dico che sono il posto, però più o meno ho capito. Io lì per poco lo, dove ci sono, dopo la Pelosa lì, dove ci sono quelle luci, per poco non ci perdo un amico una notte, che siamo andati a Grunghi, siete il barattolo suonando, c'era fare di neva. Eia! Lo so che è bello, però è scivolato questo amico, si è fatto da capo in giù. Eia, con i capelli che toccavano l'acqua, per fortuna si è fermato, è svenuto. Poi avevamo trovato dei carabinieri in un posto di blocco che ci avevano fermato e ci hanno detto dove state andando lì e via veniamo a trovarvi, manco male che siamo giunti lì, sì. Gli ho chiesto una mano, l'abbiamo portato su, poi l'abbiamo portato alla guardia medica, che è toccato dagli adu, si è spostato la spalla, poi... No, stavo pescando Grunghi con i filaccioni, ci avevamo i barattoli, ho sentito il barattolo suonando, bla bla bla, Antone, il grongo, se non rispondeva, ho illuminato con la fila, ho visto il giosso, ne ha su, sono vado umiliato. Infatti di notte negli scogli non ci vado più, si è calato un po', adesso sei 4-5. Ora. Kappa, avanti. Ciao già, buonasera Gianni, mi copri? Certamente che sì, ciao Gabriele. Ciao Gianni, buonasera. No, perché sto girando un po' nei canali con l'antenna a filare per vedere se riesco a fare qualche collegamento. Mi compri bene già? Beh, c'è Saverio, sta parlando a sì. Ok, dai. Ciao Saverio, dove sei? Ehi, a Santiago 4-5, dai. Sto rispondendo a Gabino un attimino, avanti Gabi, Santiago, prova Gabi. Ciao Gianni, buonasera, sento solo a te, ripeto, sono con mi stai arrivando 9.40 qua tu a me Gianni, 9.40, sono con una long drive direzionata, diciamo, nord, sto provando a strattolare su dei canali, a ver se riesco a fare qualche collegamento, come mi copi Gianni? Qua sei 9.30, radio 5, perfetta. Positivo, sto usando una... diciamo una long live di 30 metri filati. Ma quella che hai fatto a Burovescia? Sì, infatti non ero convinto di arrivare perché diciamo la direzione non è proprio per Sassari, è quasi la coda. No, va bene Gabi, va bene. Vi lanciamo a Saverio che è in macchina. Saverio, avanti, lo senti a Gabino? Gabi, lo senti a Saverio? No Gianni, dov'è? Sta andando a pescare, non lo dice dove, perché ha detto che si c'è il peccato, ma non è il peccatore, ma sta andando verso istintivo. Positivo, no, lo sento in sottofondo, ma non lo occupo, lui a me mi sente. E a me mi senti, Gabino. Spiegaci, Saverio. Ehi, a Saverio, dai, non lo so, Gabino, tu lo ha detto se è possibilità di rottare l'antenna, ma non penso che gli abbia messo rottore. No, nessun rottore, ce l'ho puntata a nord-nord-ovest, dai, l'ho puntata poco fa. Lui sta andando verso Trentino, ma mi coppia? Cappa, ma lui ti sente basso, ha detto che ti coppia bene Gabi, però ha detto che, che lui è proprio nella punta della Sardegna, quindi dovresti ascoltarlo bene. No, non lo sento. Ha fatto una chiamata a qualcuno, mi è sembrato Natalino. E io ero... Gabi, ero io. 9.20 mi arrivi, Natalino, ti sto copiando, 9.20 qua. Grazie per il QRK, dai. Anche la radio è migliorata, cioè non ho pochissimo QRM, ma vabbè, lavora, è puntata nord-nord-ovest, ma lei lavora, diciamo, a Grecale verso Alghero. Ho capito, guarda un po' se ha migliorato un po' qualcosa. No Natalia, ti conto sempre uguale. Sempre 9.20 mi ascolti? Sì, 9.20 radio Super 5. Guarda a me Gabi, adesso come mi ascolti? Ora c'è un trifono, fai sissere. Qua, guarda, io sto usando Superstar adesso, posizionata la Superstar. Già, mi sei arrivato a fondo scala, ti faccio il video e te lo mando su Messenger se non ci credi. Fondo scala. Cappagata, va bene. Saverio! Quindi non ha migliorato niente. Natalino l'Alfa 1 ho copiato, adesso Saverio l'ho copiato, mi è arrivato quasi 9.20. scusate, era al telefono. Ah, ci sei Natali, ci sei? Sì, che ci sono io, Gavì. Sicuramente ti sto prendendo in pieno, mi stai arrivando, adesso sei nella L di del cal del coso, del superzato. Ho capito, va. Vuol dire qualcosa già aumentato. Beh, è positivo, comunque queste antenne filari sono assurde, secondo come le appunti è assurda. E sono direttivo. Ciao Gavino. Ciao Giulio, buonasera, buonasera e ben sentito. Ciao Gavì, stai arrivando benissimo anche qua, 9:10 più o meno, con il LED, dai, con lo strumento a LED. Positivo, sì, tu mi stai arrivando segnale, ho visto che era tra linea verde e la linea rossa, però giù, ha migliorato il confronto l'altro giorno. Sì, è migliorato, certamente sì, messa in quella polarizzazione, è chiaro che va meglio. Diciamo che l'ho sollevata, adesso c'ha un braccio a 2 metri e un braccio a 4 metri, a 4 metri sopra, diciamo, ho dovuto legare un albero. Adesso è 4,50 per l'esattezza. Gavino, guarda che il polo positivo vuole sempre quello più alto. Sì, Natali, non è un dipolo, è un'antenna filare, è una long drive, non è un dipolo, non ha il, diciamo, il ballo, non ha due uscite, ne ha solo una, solo per il polo caldo. Scusate, dai, vi lascio che io sto seguendo la televisione. Ci sentiamo, ciao Gavino, Gianni e Natalino, alle prossime, dai, poco alza la frequenza, ma adesso sto seguendo la televisione da un po'. Ok, riprendi Gavino. Sì, Giulio, ci stai già lasciando. Dai, guardate che mi confermi anche da te vada bene. Guardate che mi confermi che anche a te vada bene. Un attimino che c'è Salvino che sta chiamando a sentire. Lo spazio adesso ce l'hai. Comunque confermo, va benissimo, ci sentiamo, ciao a tutti. Aspetta Giulio che ti sta chiedendo se lo senti Salvino da sentire. Prova Salvino, prova. Salvino, prova. Ecco, c'è il solito deficiente che mette la portante col bastardaccio. Scusa, perché non la togli la portante? Ci stiamo facendo le prove. Perché è un bastardo, ecco perché non la toglie. Cioè, professionalità zero, Vabbè. E questa non è prova, questa è proprio importante contro Giulio. Vai Giulio, riprendi. No, quando gli amici sono stesso, è perché se non mi sentono, è perché stanno gli amici sono stesso, perché invece. Ma cosa vuoi che ti dica? Se ha qualcosa di più che non è una persona, noi non lo discutiamo. Salvini, vabbè, riferiti una tagli. Ma non vedi che mettono la portante? No, non ne stanno mettendo. Ma quando entra Giulio gliela mette. Va bene, dai, mi sposto anche io perché così non si può andare. Ciao Natalino, ciao Gianni, ciao Giulio e ciao Salverio. Ci sentiamo tutte le prossime perché così non si può andare avanti. Mi sposto di canali. Buonasera a tutti. Buonasera anche a te, ciao Gabi. Grazie per le quattro chiacchiere. Anch'io faccio QRT perché così non mi piace. Resta che non avete portante, dai. Da oggi ricordatevi che la frequenza sarà sempre disturbata. Adesso io tutti i giorni, puntualmente, vengo e faccio la frequenza portante, portami, che sente chi non sente peggio per noi. No, vabbè. Giulio, vabbè, io ti sento, non è una portante forte, io ti sento benissimo, magari sì, appena fastidio, però capisco quello che c'è, quello che dici, io ti sento. Vabbè, vediamo se l'amico comunque ha delle apparecchiature per andare in altri canali, disturbare anche in altri canali, o niente, comunque, per le portanti ci stiamo organizzando, dai. E quel bastardo che si aveva sposato con la puttana della moglie, che la metteva, la suocera la metteva a battere, e adesso non sa come rifarsi. Dai, adesso vediamo un pochino se si abilita teleportanti, se si abilita la teleportanti Siria. Comunque, io sto passando, Gianni, io ti mando un messaggio su Messenger, Giulio, se vuoi venire, ti mando il canale dove possiamo andare, e sono tranquillo che lui non può venire. Allora dai, ti ringrazio capito, ma sto seguendo la televisione, continuo, dai, è quasi finito quello che stavo guardando, continuo. Ciao a tutti. Ciao. Mi dispiace, ma viva quell'amico bastardo tuo, quel bastardo di quell'amico tuo, dillo. Credo che l'abbia l'ignoranza sia infinita. Va bene. Ciao Giulio, fatela buona e buona serata. Riprendi Gianni, per il saluto a Giulio. Io non ne ho di amici. Avanti, Salvidio, ti ascolto. Ti sei abbassato molto, Salvidio, dai, non so dove tu sia, però ti sei abbassato. Gianni, quanto ti arriva te la portante? È forte, è 9.30 mi fa. E io quanto ti arrivo? Tu la passi, però c'è una vibrazione, la tua voce la capisco quello che dici. Anche qua arriva Giulio. È contento, lo posso andare a dire. Anche qua arriva Giulio, rapito, io lo sento lo stesso. Natalia è quello che ci aveva sposato, quella donna che la madre la metteva a battere, quello lì è. Ehi vabbè, preghiamocene giù, io ti sento ugualmente. Comunque è un grande miserabile, è sempre stato, lo sarà sempre miserabile. Ma io ti copio bene Giulio, è una radietta, non ti preoccupare. Ciao Gabino, ciao Natalino, ciao Gianni, ci sentiamo, ciao. Ciao Giulio, avanti Sabino. Non ti preoccupare, una radietta, hai la possibilità di scavalcarlo quando vuoi. Salve, ti ascolto solo io, è normale che non ti risponda nessuno. Sono non fermato, tu rispondi. Adesso ci avevi la portante tua. Sì, no, perché se no... Dai, Salve, dai, ci sentiamo. Gabi, manda il tuo messaggio. Sì, aspetta, non il telefono. Eia, no. No, non sono attaccato. Cioè, Salvino l'attentino, Natalino e cosa, però Natalino stava chiudendo e poi c'è Gabino. Ti ho mandato un messaggio. Dai, Salve, sto chiudendo, dai, ci sentiamo, buona serata. Lei che vuole entrare su 10, io sono qua in ascolto, Gabino, ci sei? Ciao, già, sì, ci sono. Cazzo. E allora, mi ha negato, Yes. Brodo. Va bene, col freddo va bene. Io l'avevo fatto l'altro giorno, di pollo. Ti ho messo due cipolluschi, ma di quelle grandi. E mi piacevano più le cipolle del resto. Cazzo, quanti sono buoni. E mi poco fa lo stavo dicendo a Manuele, ho fatto a me, mi puoi fare anche quattro cipolle e puoi mettere. A me piacciono un bel. Sedano non è un beso perché non ne avevo. Io ci metto cipolle, carote e il pollo. E ho mangiato bene, mi è piaciuto, mi ho fatto anche la minestrina pure. Sì, no, anche a me piace lo stesso. Aspettami il microfono un attimino, così mi siedo. E me già. E io mi sono incuffiato, ti sei microfonato e incuffiato. sì, no, così mi siedo. Ecco, sto usando il Kim. Uia, almeno gira un po'. E io ogni tanto accendi, ragazzi. Uia. C'è una differenza da quella, da quel filo che stavo usando a questa? Prova. Guarda un pochino. Ora. Guarda un po' se c'è qualche differenza, se le radio vedi il segnale. Più basso sei con questa, se 9.25 con picchia 9.30, là era proprio 9.30 di brutto. Considera, io qua sto uscendo di là avevo 737, 747 quando scendo con 15 watt. Ah, ecco. Capito. Ed è anche in bassa potenza questa qua, non fa, non ha filo, non me ne frega niente. Se rimane così, sta dando 30 watt adesso. E lo inglese, non lo usi? L'ICOM, sì, vi uso. Però lui ce l'ho più caldo in ricezione, no, non è bello il 27, dai. Ma guarda che non è male, cioè, non è performante come il Kenwood, però la radio è buona. È molto chiara la radio, questa qua è guerra, la guerra, quella là è molto chiara, capito? La radio signorile. È da salotto, ma se io sono sicuro che se tu li metti un MC60 va bene. Sì, lo so, però al momento bisogna lasciare le cose come sono perché i soldi servono per altro. Gabri, lo vedrai tu, ma io sto dicendo, tu quando puoi, se lo vuoi fare, lo fai. Sto dicendo come potrebbe andare meglio, capito? Tipo lì, non di comparativi subito. Sì, no, il progetto già c'è, le MC60 già lo so che per va bene, per quando avrò qualcosa, ma dai, qualcosa da investire su queste cose qua, su... diciamo sulla passione, la prossima sfida sarà, dai, vediamo un po', sì, comunque lo prendo. K-K-Bu, sta venendo la mia ex moglie, cosa già? Che sta venendo la mia ex moglie, aspetta un attimino, non so cosa vuole. Sì, intanto metto a mangiare i cani, dai. Metto a mangiare i cani, fai tranquillo, fai, già sono qua 10 minuti e sono in radio. Ancora non è arrivata, frega. Quando arriva mi piglia. Ehi, ehi. Ugo. Caspita, comunque ad alto aumento delle temperature. Ad alto aumento delle temperature è un po' di nebbia, però. Mi sembra perché per quest'anno il pellet può anche andare... qualche anno all'anno prossimo. Vabbè già, se ci sei fanno andare da mangiare al cane, dai, entro subito. E ha preso il telefono, è venuta per chiamare qualcuno a dare una mano. Sì, va bene, dai, entro subito. E già sono qua io. Oh Gabi, Gabi non ci sei. Gianni, metto un attimino da mangiare ai cani che stanno aspettando nella porta. Aspetta, guarda, giusto il tempo è dentro. Dai, pazienza un attimo. Intanto sta scendendo col mio telefono a vedere se riesce a rintracciare il telefono, se anche gli sia caduto in macchina, cosa, lo chiama dal cellulare mio. Sì, positivo. Guarda, metto un attimo da mangiare che stanno aspettando, poverino. E loro arrivata a quest'ora bussa, ho capito, sono come venai a mentare, questi qua se fanno come una lava mi picchiano forte a me. No, te sono già mangiato, ci ha mangiato una fetta di fegato con la pasta e perché non ci avevo altro, adesso domani devo comprare la carne per lui proprio apposita perché ci avevo solo fegato e gli altri una fettina di fegato. No, loro hanno pasta passa il sugo del brodo, col sugo del brodo, formaggio grattugiato, la pappa ben cotta, formaggio grattugiato 2 volte alla settimana, i carboidrati perché ci vogliono per loro, che hanno le crocchette, ma stanotte mangiano così. Pasta, formaggio grattugiato e brodo, niente, mare idrato, no? Già va bene. Io lì glielo metto sempre, Sì. Io adesso mi sabato li comprerò anche io del fegato e del diciamo dei polmoni, vado allo spaccioccare di lì e glielo prendo e gli faccio un bel un bel pastone col pane e la carne. Col pane e la carne glielo faccio bollito, c'ho un fornellone, mi metto fuori e glielo faccio. Quasi ogni fine settimana glielo faccio a loro. Lui sono contenti. Dai, gli do questa roba che stanno, sono appesi alla porta, prima di buttare la corrente da questi due, entro subito già. Ehi, la Gabi, dai, vai tranquillo, vai. Gabi. Eccomi qua. Perdona, ma devo chiudere, devo andare a cercare questo cacchio di telefono là. Vediamo un po'. Ce la proviamo. Ci sentiamo domani magari, dai, ciao ciao. Ciao ciao ciao ciao, ci sentiamo.